Tutti noi a volte abbiamo degli impulsi che non sappiamo identificare. Non sappiamo se sono giusti o no, non sappiamo se siamo ispirati positivamente oppure no. A volte li ignoriamo, altre volte li assecondiamo per poi scoprire che eventualmente non erano buoni. Anche se sono passati dei millenni, l'uomo è sempre quello, perciò anche i credenti prima di Cristo avevano degli impulsi che non sempre sapevano comprendere. Però vi era un impulso sul quale non avevano dubbi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, io cerco la tua faccia, o Eterno. Salmo 27, 8. Il re Davide ha espresso due verità che costituiscono i due pilastri sui quali si deve costruire ogni riflessione in merito al tema della soteriologia, cioè della salvezza dell'uomo. Davide aveva il desiderio di cercare Dio, o meglio la sua faccia, cioè quello che egli è, e non aveva dubbi che ciò provenisse da Dio. Come può un uomo corrotto cercare ciò che è perfetto? Come può un uomo depravato avere qualche sentimento positivo verso Dio? Queste sono domande che alcuni teologi si pongono cercando di dimostrare che la salvezza è una grazia che Dio concede solo ad alcuni, ma Davide lo dice chiaramente. Chi cerca Dio è perché Dio ha messo nel suo cuore un tale sentimento. Perciò il problema non sarebbe perché alcuni cercano Dio oppure no, ma se Dio voglia che tutti gli uomini siano salvati. Una cosa è certa, non vi è nessun riferimento nella scrittura in virtù del quale si possa affermare che Dio voglia che alcune persone siano perdute. È vero che Gesù ha detto che nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ma si è espresso così non per dire che il Padre attira solo alcuni, ma per dimostrare che la chiamata alla salvezza è solamente per grazia mediante la fede, che la salvezza è un'opera esclusiva di Dio. Perciò se senti nel tuo cuore che è giunto il momento per te di occuparti della tua anima in modo particolare, se avverti il desiderio di conoscere Dio tramite Gesù Cristo, questo sentimento è l'opera dello Spirito Santo e non di un convincimento umano. Cercare Dio è un'attività spirituale e tutto ciò che proviene dallo Spirito è da Dio. Proprio perché siamo insanabilmente corrotti, dobbiamo accettare che il bene procede solo dallo Spirito Santo. Davide non si è limitato ad esprimere la verità che l'uomo cerca Gesù Cristo solo perché Dio ha messo nel suo cuore l'iniziativa di cercarlo, ma ha risposto dicendo che cercava la faccia di Dio. Dunque, Dio mette nel cuore dell'uomo il desiderio di cercarlo, poi vi deve essere da parte dell'uomo la risposta di volerlo cercare. Due verità che si completano, due verità che non si escludono. Proprio perché vi deve essere una risposta positiva, Dio nella sua parola rivolge del continuo l'invito ad ascoltarlo e a scegliere la luce anziché le tenebre, la vita anziché la morte. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché possa vivere, tu e i tuoi discendenti. Deuteronomio 30, 19. Proprio perché la perdizione dell'uomo non è nella volontà di Dio, proprio perché l'uomo è libero di scegliere tra il bene e il male, l'Eterno dice tramite il profeta Geremia. Ma se non ascoltate questo, l'anima mia piangerà in segreto a motivo del vostro orgoglio. I miei occhi piangeranno dirottamente e si scioglieranno in lacrime, perché il gregge dell'Eterno sarà condotto in cattività. Geremia 13, 17. E ancora, di loro è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché mai dovreste morire, o casa di Israele? Ezechiele 33, 11. L'Eterno Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma altresì non vuole prevaricare la volontà dell'uomo che ha creato a sua immagine e somiglianza, cioè dotato anche della capacità di scegliere. Proprio perché ha la capacità di scegliere, Dio ordina all'uomo di cercarlo. Di cercarlo come si cerca il più grande tesoro, come la cosa più importante di questo mondo. Prima di morire, il re Davide disse a suo figlio Salomone: L'Eterno investiga tutti i cuori, e comprende tutti gli intenti dei pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà per sempre. 2 Cronache 28:9. Proprio perché Dio comprende gli intenti, non tutti arrivano a conoscere Dio tramite Gesù Cristo, perché la condizione per trovare Dio è cercarlo con tutto il cuore. Infatti ci è che cerca Dio per passatempo, perché lo fanno in molti, o per curiosità. Al tempo di Gesù, Erode desiderava conoscerlo, ma solo perché desiderava vederlo, fare dei miracoli, e per questo Gesù non lo accontentò. A coloro che avrebbero posto fede in lui, Gesù ha promesso che non avrebbero mai più avuto fame e mai più sete. Non solo. Coloro che lo hanno riconosciuto come il loro Salvatore e Signore avrebbero ricevuto uno spirito talmente abbondante che fiumi di acqua viva sarebbero usciti da loro. Eppure, come Davide, il credente realizza il bisogno di cercare del continuo la faccia di Dio. Questo fa parte degli opposti della vita cristiana. Chi crede in Cristo è sfamato, ma continua ad aver fame di pace, d'amore, della parola di Dio, è dissetato, eppure continua ad avere sete giustizia, di santità. Come dice il profeta Osea, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia che annaffia la terra. 6:3. E, sempre più comune, l'atteggiamento errato che ci fa vedere Dio come inflessibile, un Dio che ci fa portare le conseguenze dei nostri falli, e, in un certo senso, è anche così. Ma chi lo cerca con un cuore umile lo vede a sé favorevole, lo vede positivo. Chi cerca Dio considera che tutto ciò che gli capita collabora per il suo bene. Perché sia invogliato a cercarlo, l'Eterno ha promesso dei premi per coloro che lo cercano. Premi che potrebbero essere definiti in poche parole, ma che vale la pena leggerli. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Salmo 9:10. Come disse qualcuno, a Dio piace la gente che gli ronza attorno. Si rallegrino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre, magnificato sia l'Eterno. Salmo 40:16. Quando si cerca Dio, si è sempre felici. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Lamentazioni 3:25. Noi abbiamo bisogno che Dio sia buono con noi, e se lo cerchiamo, Egli lo è. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Salmo 34:10. Se chi cerca trova, chi cerca Dio non può mancare di tutto ciò che è un bene per lui. Gli uomini malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. Proverbi 28:5. Cercare è già in sé un sintomo di intelligenza, perciò chi cerca Dio realizza che la comprensione della vita e di Dio è più facile. Cercare Dio è il grande impulso che Egli ha messo nel cuore dell'uomo. Vi sono modi e modi per cercare Dio, per questo non tutti arrivano a conoscerlo. Ma l'esperienza di Davide può insegnarci molto. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino, l'anima mia è assetata di te, a te anela la mia carne in terra arida e riarsa, senza acqua. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io vivo, e nel tuo nome alzerò le mie mani. Salmo 63, 1-4. Se vogliamo trovare Dio, se vogliamo conoscerlo, dobbiamo cercarlo fin dal mattino. Questo presuppone che la prima cosa della quale ci occupiamo quando ci alziamo è voler conoscere il nostro Creatore e Salvatore. Salvatore. Non si può dire di amare una persona e dedicargli soltanto gli ultimi ritagli del nostro tempo. Come non si può dire di amarla e pensare a questa solo nei momenti di noia? Amare significa dare la precedenza. Dopo 40 anni di vita cristiana posso dire che mi sono alzato tutte le mattine alle 6:30 per studiare e meditare la parola di Dio fino alle 7:30, orario in cui andavo a lavorare. Non credo che ci siano dei meriti in questo, perché ho semplicemente obbedito all'impulso di cercarlo che Dio ha messo nel mio cuore. Io sono comunque un servo inutile, perché ho semplicemente fatto ciò che dovevo fare. Cercare Dio fin dal mattino, d'estate o d'inverno, con il caldo o con il freddo, stanco o riposato, è stato il mio benessere fisico e spirituale. Davide cercava Dio come terra arida, senza acqua. E questo è il giusto atteggiamento per ricevere tutti i beni da Dio. Se si cerca Gesù Cristo come optional, sentendosi già riempiti di sé e soddisfatti di ciò che offre il mondo, non si può bere, è impossibile ricevere. Lo Spirito di Dio è come l'acqua, cerca sempre i posti più bassi. L'umiltà è il punto debole di Dio e il tallone di Achille davanti alla quale Dio si trova disarmato. Se cerchiamo Dio per mezzo di Gesù Cristo e non lo troviamo, oppure non ne siamo soddisfatti, allora è bene rivedere il nostro rapporto con Lui. Quando un'anima ha il giusto rapporto con il suo Creatore, non può esprimersi diversamente da Davide nel dire «La tua benignità vale più della vita». Non conosco un'espressione più bella. Chi ama la vita come me, chi apprezza ogni bene, chi è cosciente come il re Davide e quelli come me di tutto ciò che lo circonda, affermando che la benignità di Dio è meglio della vita, indica di essere stato partecipe di un'esperienza veramente profonda e sconvolgente. E in effetti per me è stato così. La mia resa a Dio, avvenuta nel mese di maggio del 1964, ha talmente appagato il mio cuore così riarso che la mia risposta allo Spirito Santo di cercare Dio è stata benedetta ogni giorno della mia vita. Nel trovarlo, ho trovato me stesso. Gennaio 2005 01 04 Ellero.